Seconda stella a destra, questo è il cammino. L'amico immaginario. Poi la strada la trovi da te. Di Giovanni Savarese. Porta all'isola che non c'è. Dicono gli psicologi che avere un amico immaginario da bambini sia normale, serve a crescere e poi svanisce. Noi però i nostri amici immaginari non li facciamo andare via, anzi cerchiamo di incontrarli tutte le volte che possiamo per rivederli e rivederli e rivederli ancora. Benvenuti all'amico immaginario. Capita qualche volta che un amico o un'amica siano più attraenti della media. Quelle situazioni in bilico tra amicizia e innamoramento, tra relazione platonica e interesse sessuale. Questo perlomeno nella vita vera. Nei rapporti con gli amici immaginari il problema non sussiste. In questo caso, infatti, ci si può anche silenziosamente innamorare, tanto l'altro o l'altra non lo saprà mai. E anche se lo sapesse, rimarrebbe dietro a uno schermo, in un libro o in una striscia di fumetti. L'amica immaginaria di oggi ha fatto strage tra i suoi fan e è diventata quello che è diventata anche per le sue caratteristiche fisiche e caratteriali, non possiamo negarlo. Bella, di una bellezza prorompente, formosa e atletica, per niente arrendevole, molto avventurosa, grintosa, una tipa tosta, insomma, con la passione per il viaggio, per gli antichi templi, magari protetti da schiere di lupi o da altri animali pericolosi, dinosauri compresi. Ma a lei non importa, lei interpreta così il suo lavoro, l'archeologia. Sì, perché lei, la nostra amica di oggi, fa l'archeologa. O meglio, la razziatrice di tombe, in inglese Tomb Raider. Tu sei un'autorità in cose antiche e mitologiche. Per questo viaggio. È un antico orologio, era nascosto in una stanza segreta. Brilla, ma diventa più splendente, come se facesse il conto alla rovescia. Puoi costruire, distruggere, muoverti avanti e indietro nel tempo. Il futuro è tuo ora, Lara. Sei l'unica che ha la forza di distruggere il potere della luce. Diventiamo soci. Potresti cercare di uccidermi. Non ti ucciderò. Ho detto potresti. Lara Croft, eroina di Tomb Raider, nata a metà degli anni 90, capace di rivoluzionare il mondo dei videogame e di fissarsi nel nostro mondo come nessuna prima di lei. Molto più di un personaggio di una serie di videogiochi, nata digitale e diventata fumetto, bambola, parodia, oltre che ovviamente protagonista in carne ed ossa di un paio di film. Così popolare da meritarsi nel 2006 una stella sulla Walk of Game, quasi omonima della hollywoodiana Walk of Fame, a San Francisco, in California. Così famosa da entrare di diritto nel libro di Guinness, il Guinness World Record, come eroina dei videogiochi più famosa appunto al mondo. Così popolare da avere in Inghilterra una strada con il suo nome, a Derby per essere precisi. Il tratto di circonvallazione interna tra Osmaton Road e Barton Road si chiama Lara Croft Way. Ma partiamo dall'inizio e scopriamo assieme quello che c'è da sapere su Lara Croft. Quattro universi paralleli e altrettante biografie, tutte con tratti simili. A leggerle, Lara Croft parrebbe la perfetta sintesi della nobiltà britannica ottocentesca. Un secolo dopo, però, è molto più sexy. Questo potrebbe tornare utile. Nata nel 1968, istruita in casa e poi in una scuola femminile. Ancora giovane si innamora di viaggi, avventura e ricerca grazie all'incontro con l'archeologo Van Croy. Altra figura fondamentale è il padre. L'esperienza che le cambierà la vita è un incidente sull'Himalaya. Questo racconta la storia di Lara, secondo Core Design, la casa che ha creato i primi capitoli della serie di Tomb Raider. Mr. Livingstone al femminile, con tocchi vari di Indiana Jones, molte più armi, pistole, balestre, arco, fucile, fiocina, lanciarazzi e soprattutto un fisico da paura. Ora l'unica cosa che manca è qualcuno a cui sparare. Autodidatta in tema di archeologia, racconta al mondo le sue scoperte attraverso i libri. Negli altri universi paralleli, il percorso subisce minime variazioni. Il risultato finale è sempre un'eroina guerriera. questo avevano immaginato i creatori del videogame nel 1995. Non un uomo in uno sparatutto, ma una donna che combatte, sì, ma che è anche un piacere per gli occhi, in particolare maschili, in un body attillato, con i capelli raccolti in una treccia e un seno aumentato dai disegnatori del 150%. In origine il nome era Laura Cruz, poi cambiato in Lara Croft, rimasto immutato nella serie dei videogiochi Tomb Raider, 10 più gli spin-off che l'hanno fatto diventare l'eroina dei videogiochi più famosa del mondo, secondo il Guinness dei primati. Le avventure la portano ovunque, in giro per il mondo, Perù, Egitto, Cina, Tibet, Alaska, Antartide, l'Area 51, alla ricerca dei miti dell'archeologia, compreso il leggendario mondo di Atlantide ed Excalibur, la spada di Re Artù. Nel 2300 a.C. un faraone scoprì un luogo che chiamò la culla della vita. Lì trovò un vaso che conteneva la vita e la morte. Diciamolo subito, parleremo di Lara nei videogiochi, nel cinema, ma anche nella musica italiana, con chi l'ha addirittura portata a Sanremo, vale a dire Eugenio Finardi, e ne parleremo con colei la quale ne ha fatto un personaggio da ridere per la TV, la bravissima Sabrina Impacciatore. Andiamo però per gradi e cominciamo con le origini di Lara Croft, quelle videoludiche. È nata intorno al 95, quando il mondo dei videogames era dominato da eroi maschili armati fino ai denti e di donne non se ne vedeva nemmeno l'ombra, se non in ruoli assolutamente marginali. Ne parliamo con un vecchio amico di questa trasmissione, Marco Giannatiempo, esperto di comunicazione e soprattutto vero e proprio storico dei videogames. Allora Marco, come abbiamo detto, cominciamo dalle origini di Lara Croft e di Tomb Raider. Lei nasce naturalmente come un videogioco totalmente innovativo rispetto a tutto quello che il panorama dei videogiochi proponeva in quel periodo. Il suo inventore, Toby Gard, quando propose il progetto Lara Croft, non dico che venne riso, ma quasi, era un mondo totalmente popolato, quello del 1995, da maci, da supereroi muscolosi, eccetera, che i re interpretavano le fattezze di un qualcosa visto naturalmente al cinema e riproposto nel mondo dei videogiochi per i ragazzi. Quando appunto propose il progetto di questa Lara, qualcuno lo guardò abbastanza male in core design, ma il marketing dell'azienda disse sì, possiamo farlo. Poi c'è un grande errore che nacque dalla programmazione di questo videogioco, che sono appunto le forme di Lara. Per un errore Gard propose questa Lara super maggiorata del 150% a livello di seno, e questa cosa invece di essere eliminata piacque molto e alla fine divenne il carattere distintivo di Lara, almeno uno di questi, e da lì nacque appunto tutta una serie di fanbase che non solo riconfermò che un eroe femminile poteva assolutamente funzionare nel mondo dei videogiochi, ma portò tantissimi nuovi accoliti che magari arrivavano da altri tipi di tipologie di videogioco, decretando un successo planetario per quello che riguardava appunto il brand Tomb Raider, che da lì prese piede. Un videogioco che ha segnato un grandissimo successo sin da subito. Di fatto è stato l'inizio del dominio delle console sui PC per i videogames. Tomb Raider, uscito nel 96, è stato subito campione di incassi, anche longevo, visto che pur tra alti e bassi nei risultati economici ancora oggi produce nuove avventure per la nostra eroina. Marco Giannatiempo, quali sono le caratteristiche del gioco e della protagonista che ne hanno decretato il successo? Beh, sicuramente il suo fiuto da archeologa, dunque questa sorta di propensione a fare l'Indiana Jones al femminile, è una delle caratteristiche principali, perché ama moltissimo questo tipo di iniziativa. Dall'altra parte l'utilizzo delle armi di solito non, ci sono anche fucili, pistole, mitragliatori, eccetera, però anche le armi, come si è visto nell'ultimo episodio, tipo arco, eccetera, questa sorta di intuito a utilizzare le armi al meglio. Poi c'è una grandissima caratteristica che è quella appunto di cavarsela con poco, una sorta di mix in questa cosa tra MacGyver e Indiana Jones, visto che alla fine se la cava veramente con poco e ha un grande intuito, riesce a sfruttare il territorio e gli oggetti che trova in giro per il suo itinerare nella maniera migliore. In effetti l'esplorazione del territorio e l'utilizzo degli oggetti è una delle caratteristiche principali. E poi la sua grande umanità, è una persona molto umana e anche il nemico più cattivo prova di solito a tendere la mano. Questo un po' meno negli ultimi episodi, poi c'è l'ultimissimo episodio che uscirà nel 2015 che la vede totalmente cambiata. È bello perché anche le sue caratteristiche, tutto quello che abbiamo elencato, matura dal 1995 ad oggi, matura e cresce con lei, anche se effettivamente poi, come vedremo, cambierà di stato la Lara che conoscevamo molti e molti anni fa. Bentrovati all'amico immaginario. Abbiamo parlato poco fa con l'esperto di videogiochi Marco Giannatiempo delle origini di Lara Croft, la sua nascita a metà degli anni 90, le sue caratteristiche particolari, l'originalità di un personaggio dei videogiochi donna, armata e senza paura. Torniamo con Giannatiempo e tracciamo un brevissimo percorso storico del videogioco. Marco, con uno sguardo anche al futuro. La storia del videogioco nasce appunto ufficialmente nel 1996, quando Tomb Raider esce e cambia totalmente il mercato. Crescono le vendite con il secondo e poi con il terzo, Adventures of Lara Croft. Dopodiché c'è una sorta di picco in discesa, anche se i numeri rimangono molto alti, tra il 99 e il 2003 di Angel of Darkness, ok? C'è una sorta di piccola ripresa nel 2006, poi una sorta di stabilizzazione. Solo lo scorso anno, nel 2013, con Tomb Raider, che fa una sorta di reboot e dunque riassetta e riazzera tutto, propone una Lara che ripercorre le orme del primo Tomb Raider, ma con tutte quelle che sono le caratteristiche tecniche e anche di scrittura del videogioco di oggi. Il gioco è veramente molto bello e fatto bene. E poi pare che nel 2015, si chiamerà Rise of the Tomb Raider, uscirà un nuovo videogioco con una caratteristica molto importante. Si vedrà questa Lara matura, cresciuta, e dall'altra parte una sorta di rivisitazione di tutto quello che sono gli episodi e tutta la cultura di Tomb Raider. Non dimentichiamo che nel 96 il mercato del videogioco aveva poco più di 10 anni, quindi totalmente immaturo. Ora ne sono passati tantissimi di anni e quindi il mercato stesso dei videogiochi ha molti, molti elementi da inserire in questa sorta di capitolo che è molto atteso. Tra l'altro sarà un capitolo con console di vecchia generazione, quindi la Xbox 360 piuttosto che la PS4. Questo è segno che gli sviluppatori vogliono raccogliere e rastrellare tutto quello che sono i fan della prima ora di Tomb Raider. Forse però le vere origini di Lara sono più lontane nel tempo, almeno nel nostro immaginario collettivo, quel mondo comune di riferimenti che richiamiamo spesso. In questo caso l'insieme da cui proviene Lara è quello femminile, il sottoinsieme delle eroine. In compagnia di Lara ci sono nomi come Cleopatra, la regina di Babilonia Seramide, Eleonora d'Aquitania, regina di Francia e poi anche d'Inghilterra per pescare nella storia antica, oppure Giovanna d'Arco. Avevo circa 10 anni. Tornavo verso casa attraverso una scorciatoia nella foresta, quando uno strano vento cominciò a soffiare. Era un suono così strano, sembravano parole che mi chiamavano. Tutto si muoveva così in fretta. Non potevo muovermi, non potevo respirare. Dio mi aveva affidato un messaggio. Un messaggio da consegnare. Qual era questo messaggio? Ha detto che devo salvare la Francia dai suoi nemici e riportarla tra le braccia di Dio. Seguitemi! Volendo però essere un po' meno accademici e più pop, potremmo citare la Katniss Everdeen di Hunger Games, la ghiandaia imitatrice della saga scritta da Susan Collins, oppure una supereroina vera e propria, Wonder Woman. Battono armate di tutto punto, in alcuni casi hanno superpoteri, hanno fisici prestanti e allenati, spesso poi sanno essere provocanti. Eroine di fumetti, cinema, videogiochi o TV hanno un tratto in comune, sono determinate. Wonder Woman, personaggio che arriva dal mondo dei fumetti, nella versione televisiva ha avuto il volto di Linda Carter, capelli nerissimi, costume attillato che mette in evidenza forme procaci. Wonder Woman ha riflessi sovrumani, vola, è praticamente invulnerabile e si rigenera se ferita. si batte per la pace e contro le ingiustizie. Se Wonder Woman ha visto il suo mito attraversare i decenni, in ordine di tempo l'ultima nata, ma capace di mobilitare centinaia di fan, è Katniss, giovanissima combattente protagonista di Hunger Games. Inventata dalla scrittrice Suzanne Collins, al cinema è stata interpretata dal premio Oscar Jennifer Lawrence. Katniss si batte utilizzando un arco, è una guerriera dal cuore grande, per questo forse in tanti si identificano. Zitto e ascolta. È la domanda, il nostro chiodo fisso, Nino. È la domanda che ti ha spinto fin qui. E tu la conosci come la conoscevo io. Che cos'è Matrix? La risposta è intorno a te, Nino. E ti sta cercando. E presto ti troverà. Se tu lo vorrai. Occhiali scuri e abiti in lattice attillati. Trinity, fedele compagna di Neo nella trilogia Matrix, fa parte della resistenza contro un mondo dominato da macchine intelligenti. Esattamente come Sarah Connor, personaggio femminile al centro di Terminator, anche lei guida la resistenza dell'umanità contro gli automi ed è così amata ad aver meritato uno spin-off televisivo. Fra le supereroine che arrivano dal mondo Marvel c'è la Vedova Nera. Ambigua e fortissima, è una ex spia assoldata da Nick Fury che poi entra a far parte degli Avengers. Al cinema ha avuto le fattezze di Scarlett Johansson. Indossa sempre una tuta, ma anziché nera è gialla ed è abilissima con la katana, la spada giapponese. È la sposa vendicativa inventata da Tarantino, Beatrix, protagonista di Kill Bill volume 1 e 2. Ex killer ed esperta di Kung Fu, la sposa è stata incarnata da Uma Thurman ed è diventata una vera e propria icona della vendetta. Sembravo morto, vero? Ma non lo ero. Non perché non ci avessero provato, intendiamoci. A dire il vero, l'ultimo proiettile di Bill mi mandò in coma. Coma in cui sono rimasta per 4 anni. Al mio risveglio, ho agito spinta da quella che la pubblicità del film definisce una ruggente furia vendicativa. Ho ucciso e mi sono infuriata e mi sono presa tante soddisfazioni. Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. Ma ne devo uccidere ancora una. L'ultima. Quella da cui sto andando ora. La sola rimasta in vita. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill. Lara Croft, come vedremo, è stata il primo personaggio proveniente dall'universo dei videogiochi a sfondare completamente la barriera con il mondo reale, diventando molto di più di un'eroina in pixel. A parte le canzoni a lei ispirate, ne parleremo tra poco addirittura con Eugenio Finardi, Lara ha conquistato copertine di riviste importanti, è stata usata per pubblicizzare carte di credito e bibite, ha addirittura ispirato, se possiamo dire così, autori di film porno. Porno a parte, Lara Croft ha dato vita a un marketing specifico che fino ad allora non era presente, o perlomeno non così forte per i videogiochi. Marco Giannatiempo. Beh, tu hai elencato tantissimi, ce n'è anche uno molto, molto grande. Gli U2 si sono fatti fare un video dedicato per i loro concerti e per un tour hanno utilizzato dietro le loro spalle le immagini di Lara che faceva compagnia al famoso gruppo inglese. Piuttosto che molte riviste generaliste hanno dato una copertina a questo personaggio dei videogiochi, dunque Lara Croft ha avuto delle copertine e per la prima volta un personaggio in pixel si è preso degli spazi che di solito erano dedicati a personaggi in carne ed ossa. Lara ha potuto fare questo perché, a differenza del resto dei videogiochi, per rispondere alla tua domanda, aveva una personalità. Lara sosteneva delle interviste, Lara era un qualcosa a cui la gente si ispirava, non solo in termini di modello, ma anche in termini comportamentali e di obiettivi. Quando la console si spegneva, il personaggio continuava ad esistere, questa sorta di senso, molto bello tra l'altro, è diventato una cosa che il marketing ha preso e ha detto ok, non rimane solo nella console ma esce, in effetti è stata testimonial di bevande, carte di credito, piuttosto che come ti raccontavo gli U2, quindi il segreto era la personalità che non rimaneva circoscritta nell'ambito videoludico ma usciva e dunque diventava di dominio pubblico. Con un tale successo, una popolarità così grande, Lara Croft non poteva non arrivare al cinema. Due i film fino ad ora, Il volto e il corpo di Angelina Jolie, per interpretare l'avventurosa e spericolata archeologa. Ne parleremo tra poco. Quella dei videogiochi, però, che diventano film, è ormai quasi una tradizione, non sempre con esiti positivi, anzi quasi mai. Tanti precedenti, pochi, pochissimi i campioni d'incasso. Si sono incontrati sempre più spesso negli ultimi anni, ma che sia vero amore fra cinema e videogiochi proprio non si può dire. Il feeling è più apparente che reale e la relazione sembra alla fine sempre scontentare qualcuno. Chi ama i videogiochi li trova limitati sul grande schermo, chi venera la settima arte non la vuole vedere mescolata con la meno antica tradizione del videogame. Tomb Raider a parte, ci sono pochi film tratti da giochi che abbiano avuto successo. Il caso più famoso è Resident Evil, anche qui un'eroina che non lascia indifferenti gli uomini, visto che ha le fattezze di Mila Jovovich. Mi chiamo Alice. Gli ultimi sopravvissuti hanno seguito un segnale radio in Alaska, ma ne ho ritrovata solo una. L'Umbrella. Dobbiamo andarcene. I responsabili di questo disastro si sono rifugiati sottoterra. All'Umbrella si sentono al sicuro, ma si sbagliano. Ehi ragazzi, è il modo di trattare una signora. Resident Evil è ormai una serie, come Mortal Kombat, non a caso partiti dallo stesso regista Paul Anderson. Alone in the Dark è un altro esempio, come Prince of Persia, con Jake Gyllenhaal, Max Payne, Silent Hill, Street Fighter e Final Fantasy. Tra i film basati su videogame che esistono sulla carta, e per ora solo lì, ci sono Area 51, Assassin's Creed, Halo. Capostipite dei film non animati tratti da videogiochi è però Super Mario Bros. Del 1993. Anche se non è tratto da un videogame, è di culto per il genere Tron. Siamo nel 1982 e la Disney racconta la storia di un creatore di software per giochi che entra in una delle sue opere. È forse la prima realtà virtuale cinematografica ripresa nel 2010 con Tron Legacy. Mi hanno cercato ieri sera dall'ufficio di tuo padre alla sala giochi. E allora? E allora, quel numero è inattivo da 20 anni. Due notti prima di sparire, tuo padre venne a casa mia. Mi annunciò cambiamenti radicali. Scienza, medicina, religione. Non avrebbe mai abbandonato tutto, Sam. Non avrebbe mai abbandonato te. Papà. Sam. Quanto tempo? Non sai quanto. La Disney ha fatto più di un esperimento. Ralph Spaccatutto, non il migliore incasso della casa di Topolino a Natale, è uno di questi. Fa il cattivo in un gioco e non vuole più interpretare questo ruolo. Mi chiamo Ralph Spaccatutto. Spacco tutto! Sono 30 anni che lo faccio. Comincia a diventare difficile amare il proprio lavoro. Ci pensa Felix! Se non piace a nessuno per quello che fai, deve essere bello di sicuro fare il buono. Bella condivisione, Ralph. Io sono Zangief, sono un cattivo. Ciao, Zangief. Ralph, tu sei un cattivo, ma non vuol dire che tu sei cattivo. Zombie, cattivo! Ciao, zombie. Ciao, zombie. Tu devi amarti. Io non voglio più fare il cattivo. Dall'altra parte esistono giochi tratti da Scarface, Ritorno al Futuro, Alien, Jurassic Park, Die Hard, Ghostbusters, quasi tutti Disney, Guerre Stellari, supereroi Marvel in testa, ma che qualcuno di questi sia nell'Olimpo dei videogame, certo, non si può dire. Bentrovati all'Amico Immaginario. È il momento di parlare di Lara Croft sul grande schermo, lo sbarco della nostra eroina al cinema. Il primo film dal titolo Lara Croft Tomb Raider è uscito nel 2001 per la regia di Simon West. Ha incassato molte critiche ma anche molto denaro. A fronte di un costo di circa 115 milioni di dollari ne ha incassati 275 milioni. Come abbiamo detto, gli streaming siti pantaloncini di Lara sono stati indossati per l'occasione da Angelina Jolie, punta di diamante di un cast in cui figuravano anche il padre della Jolie, John Voight, e il futuro James Bond, Daniel Craig. Forte del successo del primo film, la Paramount Pictures ha fatto uscire nel 2003 il secondo capitolo della saga, sempre con protagonista Angelina Jolie. Film dal titolo Tomb Raider, la culla della vita, diretto da Jean Debon. Un flop al botteghino con soli, si fa per dire, 156 milioni di dollari incassati a fronte di 95 milioni spesi. Di quei film resta di sicuro la protagonista, quella Angelina Jolie, che oggi è difficile staccare dal ricordo, dall'incarnazione di Lara Croft. La stessa Jolie, in varie interviste, ha detto di aver amato molto il personaggio, trovandolo non lontanissimo dal proprio carattere. In questo spezzone di intervista la Jolie racconta l'esperienza di vestire i panni dell'archeologa digitale. I've stayed pretty healthy and pretty focused on being really strong and really clear and ho cercato di stare attenta a tutto, a partire dalla salute, dal restare in forma. Ho sempre dimostrato curiosità nei confronti dei paesi che visitavo. È stato esaltante vivere come lei. È un bel modo di vivere e spero che molte persone seguano il suo esempio. Viene istintivo voler essere in forma, sempre fiera, pronta a viaggiare e combattere. E soprattutto è bello essere lei. Ho fatto tutte le scene d'azione perché non saprei come altro fare il mio lavoro. Non è divertente se lo fanno gli altri. Onestamente, quando ci si infilano quegli stivali e si hanno le pistole, si ha veramente voglia di saper fare tutto. Facciamoci la domanda classica, quella del confronto. Quali sono le differenze e le analogie tra videogioco e film? Intanto nel primo film Lara non uccide nessuno, per dirne una, né uomini né animali, a differenza proprio del videogioco. Ma detto questo, chiediamo un confronto a chi ne sa più di noi. Stefano Silvestri, responsabile di Eurogamer.it. Stefano, qual è il rapporto tra i film di Lara Croft e il personaggio dei videogiochi? I film sono la, devo dire, perfetta trasposizione della Lara Croft bionica che abbiamo imparato a conoscere in passato, quindi indistruttibile, fredda, determinata, decisa, inscalfibile, che è quella che poi viene perfettamente rappresentata da un personaggio come Angelina Jolie. In realtà l'ultima Tomb Raider che si è vista in quello che si chiama un reboot, quindi un rilancio, se vogliamo, di un marchio che era un po' appannato ormai, soprattutto nel mondo dei videogiochi, la vede agli inizi della sua carriera, quindi un reboot ma anche un prequel, per usare tutti questi neologismi che vanno di moda, ma la vede fragile, vulnerabile, che si graffia, che si taglia, soprattutto che all'inizio è infreddolita, ha paura quando si trova in questa missione su un'isola analoga a quella di Lost. Quindi diciamo che i film, che peraltro appunto sono usciti nel 2001 e nel 2003 se non vado errato, sono il perfetto specchio della Tomb Raider, della Lara Croft dei tempi. Oggi Lara Croft è diversa e il personaggio interpretato da Angelina Jolie non è più attuale, se vogliamo. Entrambi i film, Stefano, non sono stati privi di critiche da parte soprattutto dei fan del videogioco, ma i fan, si sa, sono molto esigenti. Vogliamo quindi chiedere il tuo giudizio sui due film. Tu cosa ne pensi? Allora, il primo mi era piaciuto, devo dire, fermo restando che i film che mi piacciono veramente sono altri, però nel senso, come trasposizione di un videogioco l'avevo trovata ben fatta, ben diretta, il personaggio era valido e infatti era andato molto bene. Il secondo mi era già piaciuto meno, mettiamola così, e infatti poi non a caso la serie si è anche fermata lì a livello cinematografico. Sui film in generale, allargando il discorso, ce ne sono alcuni fatti molto bene, altri meno bene, nel senso, tra quelli dimenticabili, il primo che mi viene in mente è Doom, che è un videogioco storico che ha aperto, ha dato il via, no, al genere degli sparatutto in soggettiva, ed è stato oggetto di uno dei film più brutti, credo, della storia. I Resident Evil invece sono venuti molto bene. Stefano, affrontiamo insieme ancora un altro argomento, sempre in rapporto al cinema. Un videogioco oggi può incassare quanto un blockbuster hollywoodiano? In realtà i budget, cioè i soldi, mettiamola così, che circolano nel mondo del cinema, nel mondo dei videogiochi ancora non ci sono. I videogiochi, farli, costano più dei film. Però appunto poi alla fine, salvo rari casi, sono un po' un terno all'otto. Faccio un esempio. X-Men, l'ultimo X-Men che è uscito adesso, che è stato grande successo al botteghino, è costato 200 milioni di dollari. Grand Theft Auto 5 ne è costati 250. Però questi sono solo i costi di sviluppo. Poi bisogna aggiungere i costi di marketing e sui AAA, quindi vuol dire quei titoli sui quali si punta tutto perché sono i blockbuster, i costi di marketing arrivano a triplicare i costi di sviluppo. Detto in altre parole, per Grand Theft Auto 5 Rockstar ha messo sul piatto $1 miliardo tra sviluppo e lancio del gioco, che nel suo caso sono rientrati in 72 ore, facendo di Grand Theft Auto 5 il prodotto di maggior successo nella storia dei videogiochi, del cinema e dell'entertainment in generale. Cioè Avatar era costato meno, quello di James Cameron, e a $1 miliardo ci è arrivato in 6 settimane, se non vado errato. Grazie a Stefano Silvestri. E prima di fare due chiacchiere con Eugenio Finardi, che portò Lara Croft a Sanremo nel 99, e con Sabrina Impacciatore, la bravissima attrice italiana che ci ha regalato una parodia ormai storica della nostra amica immaginaria, passiamo la parola ai fan, fondamentali per noi, amici dei nostri amici, possiamo dire. Navigando tra i profili Facebook dedicati a Lara Croft, e sono davvero tanti, ci ha colpito uno in particolare. Si chiama Le migliori frasi di Tomb Raider. Siamo al telefono con il curatore del profilo, Marco Giannotta. Marco, cosa si evince dalle frasi di Lara? Cioè, quali sono le frasi che la raccontano al meglio? Ce ne sono due che mi hanno sempre molto colpito. La prima è tratta da uno dei primi Tomb Raider, che è il quarto, si chiama The Last Revelation, e Lara ad un certo punto, parlando con un egittologo che la mette in guardia contro i pericoli della sua avventura, risponde: sono io a scrivere il mio destino. Ed è esattamente questo, cioè lei è consapevole di se stessa e sa che ciò che la attende lo decide lei. Quindi la frase mi ha sempre molto colpito, che secondo me rende molto bene il carattere di Lara. E poi c'è un'altra che invece dice in un capitolo successivo, che è tratta da Tomb Raider Legends, il settimo, dove lei dice: lo sai che non mi lascio intimidire da nessuno. Ed è effettivamente la sua attitudine. Lei vuole qualcosa, raccoglie la sfida e non si dà per vinta, va avanti, sa che si riuscirà. Lara si manifesta attraverso ciò che dice, perché Lara non è di molte parole in realtà, però la sua sagacia, il suo fascino è stato espresso attraverso ciò che pensa, che poi eventualmente manifesta. Marco, hai idea di come sia diviso il pubblico del profilo che gestisci? Più uomini o più donne? Insomma, è vero che Lara attrae per ovvi motivi soprattutto maschi, o anche un pubblico femminile nella tua percezione? Allora, sì, effettivamente non ho mai provato a fare una statistica, però credo che sì, che siano piuttosto ben distribuiti in modo piuttosto equo. Forse c'è una leggera preponderanza dei maschi, però in realtà ho visto che, almeno da quello che capita a noi, i commenti, i like sono spesso anche postati da ragazzi, da donne, che si, appunto, che si medesimano nella figura femminile così forte come quella di Lara. Bisogna dire, in effetti, che quando Lara è arrivata nel lontano 1996, c'era un po' questo immaginario collettivo della figura femminile nel videogioco come la figura da salvare, rinchiusa in un castello, rapita, e quindi una figura un po' più debole. E insomma, quindi era innovativa per questo motivo, era una figura femminile, sì, ovviamente sensuale, molto prorompente, sicuramente, però perché altro una donna capace effettivamente di badare a se stessa, una donna che non aveva niente da invidiare a nessuno degli uomini dell'Indiana Jones che si era vista fino a quel momento, insomma. E quindi credo che abbia in realtà contribuito molto ad avvicinare anche le videogiocatrici poi alla serie. Lara lotta sola contro il mondo. Cantautore impegnato, importante, creativo come Eugenio Finardi e Lara Croft. Molti ricorderanno che questa originale accoppiata si verificò a Sanremo nel 1999. Sul palco dell'Ariston, uno dei più apprezzati artisti del nostro paese, portò proprio lei, la nostra amica immaginaria di oggi, nella canzone Amami Lara, più che ispirata all'eroina di Tomb Raider. Poter chiedere la storia di questa canzone proprio a Eugenio Finardi, lo ammettiamo, è un po' un privilegio. Allora, un saluto a Eugenio Finardi, subito la domanda: cosa accadde per farti portare una eroina digitale all'Ariston? Beh, successe che la mia casa discografica insistette che io mi presentassi a Sanremo e io avevo scritto una canzone molto seria, molto, molto cantautorale, diciamo, che la commissione aveva accettato, che mi aveva fatto entrare, insomma, nella rosa di coloro che avrebbero partecipato. Però poi la casa discografica ebbe dei ripensamenti, dicevano che era troppo difficile, che non era radiofonica, eccetera, eccetera, e mi chiesero di proporne un'altra. Io ero con Fabrizio Consoli, un chitarrista e cantautore con il quale ho lavorato per anni, che per anni è stato il mio chitarrista, e mi arrabbiai molto. Ed eravamo lì nel salotto studio di casa mia, della mia vecchia casa, io ero molto frustrato da questo evento, e c'era mio figlio che giocava a Lara Croft, no? Che giocava a Tomb Raider, che era il videogioco del momento, era appena esplosa la mania, no? E cominciamo a giocare con le chitarre, e avevo costantemente davanti l'immagine accanto a me di Lara Croft che saltava, che eccetera, e a un certo punto mi distrassi e mi ricordo dissi a Riccardino: ma certo che Lara Croft è veramente gnocca, cioè. E così venne fuori quest'idea dell'amare un personaggio virtuale, no? Dell'innamorarsi di qualcuno che non c'è. Infatti è una piccola metafora, proprio anche tutta la canzone nel testo fa proprio dei riferimenti al giocare, a ricominciare, a salvare i livelli e tutte queste cose qui. E mi innamorai di questa, cioè questa idea mi tirò fuori dai blues, dalla tristezza, no? Dalla frustrazione, e mi gasò, perché poi era anche un divertente come gioco mentale, no? Quello era una bella immagine, quella di questo personaggio che si innamora di qualcuno che non potrà mai avere. Bentrovati all'amico immaginario. Ultima parte della trasmissione dedicata alla nostra amica di oggi, Lara Croft, eroina di Tomb Raider. Ne torniamo a parlare con Eugenio Finardi, in particolare di quella canzone, Amami Lara, che sentite in sottofondo e che Finardi portò al Festival di Sanremo nel 1999. Un'eroina digitale sul palco dell'Ariston, portata da uno dei più importanti cantautori del nostro paese. Un fatto strano, di sicuro originale. Allora chiediamo a Finardi che accoglienza ebbe quel pezzo. Ma ci fu un'accoglienza molto positiva da alcuni, da coloro che soprattutto capivano questo mondo, no? Questo il mondo appunto dei computer, della virtualità, dei videogiochi, e invece una certa delusione da parte di coloro che si aspettavano la canzone cantautorale classica, magari nel mio caso di protesta, non fu da alcuni, insomma, fu considerata una canzoncina superficiale, così banale, superficiale. Invece da altri invece fu capito il discorso di questo, appunto, un discorso che poi adesso sarebbe ancora attualissimo, no? E lì era proprio l'inizio del fenomeno. Amami Lara parla dell'innamoramento per un personaggio virtuale con chiari riferimenti al gioco. Un tema di grande attualità oggi, basti pensare al film Lei, diretto nel 2013 da Spike Jonze con Joaquin Phoenix. Il film descrive un futuro non troppo lontano nel quale la tecnologia ha un ruolo ancora più importante di oggi e nel quale un uomo, il protagonista Theodore, ha una relazione con il sistema operativo del PC di casa dotato di intelligenza artificiale. Un nome femminile, Samantha, e una voce ovviamente femminile. Signor Theodore Twombly, benvenuto nel primo sistema operativo di intelligenza artificiale del mondo. Resti in attesa, il suo sistema operativo si sta avviando. Ciao, eccomi. Ciao. Ciao, come stai? Buongiorno, Theodore. Buongiorno. Hai una riunione fra 5 minuti, proviamo a scendere dal letto. Sei troppo divertente. Bene, sono divertente. Voglio imparare tutto di tutto. Cosa si prova ad essere vivi in quella stanza? Mi piacerebbe poterti abbracciare, poterti toccare. I'm like a bee. Sai come un piccolo computer chiama suo padre? Non lo so come. Papa. Mi senti lì qua? con te in questo momento. Non ho mai amato nessuno come amo te. Neanche io. Ora so che vuol dire. Un'altra citazione, questa un po' da nerd, lo riconosciamo, ci riporta a vecchi amici, quelli di The Big Bang Theory. Nel 14° episodio della 5ª stagione, uno del gruppo, Raji, si innamora della voce sintetica di Siri, l'assistente vocale di un famoso smartphone. Insomma, nel 99 Eugenio Finardi parlavi già di un amore virtuale, di un rapporto quasi umano con la tecnologia. Noi abbiamo un rapporto oramai con le macchine, con i computer, con le voci del computer. Io non dico una cotta, ma ho un rapporto con Siri, no? Nel mio telefono. Mi piace chiedere le cose e mi piace la risposta. Ogni tanto si fa il gioco di fare delle domande strane, no? Ci stiamo abituando a relazionarci con... Primo fu forse Kubrick, no? Con HAL 3000 in Odissea nello spazio, quando io ero un ragazzino praticamente, però adesso è una realtà sempre più reale, appunto. Io sono convinto che fra un po' la tastiera non ci sarà più, parleremo con i nostri computer e saranno voice activated, come, no? Si dice, gestiti vocalmente, avremo una relazione profonda quanto con alcuni esseri umani. Cosa attira secondo te del personaggio di Lara Croft? Cosa la rende così popolare? Beh, è il template di molte donne attuali. Io stavo notando una cosa ieri sera, ho guardato un telefilm e ho notato quanto, per esempio, le donne vengano picchiate o picchino molto, molto di più, una cosa assolutamente impensabile anche solo 10 anni fa, no? Cioè, le donne adesso sono trattate come i maschi, vengono ferite, si tagliano, si menano, cioè, in questo telefilm che era Banshee, tra l'altro, proprio la protagonista si massacra, riesce a vincere, ad avere la meglio, a uccidere poi addirittura un assassino della mafia ucraina, cioè non una mammoletta. Ci sono anche quei reality estremi, cioè in Alaska, è presente l'attraversamento dell'Alaska, si pattini a rotelle con un fucile da orsi, cioè cose del genere, in cui partecipano tranquillamente le donne e subiscono. Ce n'è uno molto interessante che si chiama Nudi e Crudi, in cui un uomo e una donna completamente nudi, con nulla, devono affrontare un periodo di 20 giorni in varie situazioni estreme, la giungla, la savana, eccetera, eccetera. Di solito le donne se la cavano meglio degli uomini. Grazie mille a Eugenio Finardi. Aha! Benvenuto nella mia umile dimora. Per farmi avvicinare al letto, premi il tasto cursore alto. T'ho riconosciuto. Te sei quello col dito a banana. Una Lara Croft particolare e divertentissima ce l'ha regalata una delle più talentuose attrici italiane. L'abbiamo vista in tanti film, dall'Ultimo bacio di Muccino a Manuale d'amore di Veronesi, nel segmento con Carlo Verdone, solo per citarne un paio. Ma l'abbiamo vista tanto anche in televisione, da Non era Rai a Convention a Mai dire Grande Fratello, passando per Ciro il figlio di Target, dove ci ha regalato la Lara Croft in perenne conflitto con il giocatore che la fa muovere, il famoso dito a banana, Sabrina Impacciatore. E allora chiediamo a Sabrina l'origine degli sketch di Dito a Banana. Ma dunque, io sono partita dal fatto che in realtà Dito a Banana ero io, perché non sapevo assolutamente giocare con quel videogioco. Avevo praticamente perso tutti gli amici intorno, perché ogni volta che li chiamavo per uscire mi dicevano: no, scusa, sto giocando con Lara Croft, non posso. In particolare una mia amica ci passava le intere nottate. Quindi io all'inizio ho posto una strenua resistenza, poi sono andata a casa sua, ho provato a giocare e ho visto che mi era praticamente impossibile, e lì mi è venuta l'idea di fare un personaggio, di rappresentare Lara Croft guidata da un incapace a giocare, perché mi sembrava una cosa buffa, ed effettivamente poi lo è stato. Poi in realtà la cosa più divertente è stata la costruzione del personaggio, quando sono andata a scegliere i costumi, sono andata in una grandissima sartoria teatrale sociale dove ho scelto delle tette di polistirolo le più grandi che c'erano, e quindi erano proprio due sfere di polistirolo gigante. E poi il costume è stato creato in una maniera molto sofisticata, perché era praticamente una specie di body con queste tette di polistirolo incorporate. E poi da lì, siccome la cosa che mi divertiva enormemente era quella di ricreare i suoi movimenti, ho iniziato a studiare tutti i movimenti possibili, immaginabili, li ho studiati per settimane, li ripetevo continuamente a casa, nel salotto degli amici che si divertivano tantissimo. Mi sono divertita molto a farla sbattere contro tutti gli ostacoli possibili, e quindi anche se in studio noi giravamo con il chroma key, quindi c'era il green screen, era tutto virtuale, quindi io in realtà intorno a me non vedevo niente, perché dovevamo ricreare un videogioco. Le uniche cose reali che io ho assolutamente preteso, per esempio una porta solida di legno dove poter sbattere la capoccia ogni volta che volevo. E insomma, questo più o meno è stata la genesi del personaggio, e devo dire la verità, quel personaggio è stato uno dei più divertenti da interpretare. Avevi appunto, Sabrina, pantaloncini cuciti addosso e un seno finto che richiamava quello esagerato di Lara Croft. I creatori del personaggio hanno detto che fu un errore di programmazione. Tu ci credi? Ma io non credo che si sia proprio sbagliato. Ovviamente è stato comodo dichiarare il falso, ecco, però credo che quella sia stata una scelta molto molto ponderata, perché ovviamente i richiami erotici sono sempre... In realtà i richiami erotici ormai caratterizzano qualsiasi manifestazione, anche nella musica pop. Non esiste più un videoclip di una donna che sia vestita o che comunque non rimandi continuamente a dei richiami erotici. Noi viviamo in una società ipererotizzata, purtroppo. E cosa ti è rimasto di quel personaggio così popolare? Devo dire che effettivamente ancora oggi, quando mi fermano per strada tra i vari film, insomma, c'è sempre qualcuno che mi riconduce a Lara. E nel 2000 mi ricordo che non potevo andare per strada perché era un Lara, Lara. E ancora oggi incontro dei fan spiegatatissimi di quel personaggio, quindi effettivamente ha lasciato una piccola traccia, sono contenta. Per farmi esplorare il tempio degli Incas, premi il tasto azione e la levetta analogica sinistra in avanti. Contemporaneamente tieni premuto il tasto L1 e muovi il cursore sinistro in diagonale verso destra. Mi sa che ho detto una cazzata. Sabrina, se dovessi far rinascere quel personaggio, dove ambienteresti oggi le sue avventure? Sempre il tempio Incas? Il Parlamento, direi. In questo momento credo che il tempio Inca contemporaneo sia il Parlamento, tutto quello che succede in Parlamento. Comunque, al di là di questo, noi l'abbiamo pensata questa ipotesi, perché noi volevamo anche farla interagire con la realtà circostante. C'è stato un momento in cui abbiamo pensato: la facciamo entrare nel quotidiano di ogni donna, però nella rappresentazione perdeva un po' di fascino. Un terribile Mastinus Incas! Non ho alcuna voglia di attirare l'attenzione. Per farmi passare inosservata, mettimi in modalità furtiva. Sei incoglionito! Ho detto mettimi in modalità furtiva! Temo che il Mastinus Incas si sia svegliato. E grazie anche a Sabrina Impacciatore, la puntata di oggi è finita. Un ringraziamento va a Chiara Pizzimenti e Barbara Righini per la collaborazione e a voi per averci ascoltato. Un saluto da Giovanni Savarese.